propria unicità. Grazie per aver creduto nel futuro insieme a noi. E la strada continua. Docflow.com. Agire in digitale. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. A due giorni dalle elezioni, manette per il neo eletto al Parlamento siciliano, Cateno De Luca dell'UDC è accusato di evasione fiscale. A Patria Cardarelli di Napoli, arresti domiciliari per il direttore generale e per l'imprenditore Alfredo Romeo. I livelli del PIL torneranno al pre-crisi nel 2012, dice Confindustria, l'Italia resta settima potenza manifatturiera del mondo. Trump in Cina, terza tappa del viaggio in Estremo Oriente, firmati accordi tra aziende per 9 miliardi di dollari. Nessuna conseguenza penale per chi non iscrive il figlio alle scuole medie. Lo ha deciso la Cassazione, possibile aggirare dunque l'obbligo scolastico. Inizia il processo a Marco Cappato per il suicidio assistito di DJ Fabo. La Corte dice sì all'uso del video sulle sue sofferenze. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, c'è anche la nostra pagina Facebook, la pagina Facebook di Radio 24, dalle quali andiamo in diretta video, quindi se volete ci potete anche vedere e potete scriverci e commentare anche là. Oggi in regia Filippo Aureggi, in assistenza in redazione Laura Fagin, iniziamo dunque e iniziamo dalla Sicilia anche oggi, ma per un caso che incrocia giudiziaria e politica. Sarebbe il promotore di un'associazione a delinquere finalizzata alla realizzazione di un'evasione fiscale da 1.750.000 euro. Con questa accusa i militari del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Messina e i carabinieri hanno eseguito un ordine di custodia nei confronti dell'appena rieletto deputato regionale Cateno De Luca, ora ai domiciliari. Per De Luca il ritorno in Parlamento con il centrodestra ha coinciso con un nuovo arresto. Già nell'elenco degli impresentabili per le elezioni regionali appena concluse è stato eletto nelle fila dell'UDC con 5.418 voti. Agli arresti domiciliari è finito anche Carmelo Satta, presidente a Messina della FENAPI, la Federazione Nazionale Autonoma Piccoli Imprenditori, attorno alla quale sarebbe stata imbastita la truffa. Il giudice ha disposto anche il sequestro preventivo per equivalente sia nei confronti dei due arrestati che della FENAPI. Per gli investigatori sarebbe stato creato un intreccio societario che faceva capo alla FENAPI, utilizzato per un sistema di false fatture che avrebbe consentito l'evasione di imposte dirette e indirette. Secondo l'accusa venivano imputati costi inesistenti alla FENAPI che poi trasferiva l'imponibile utilizzando il regime fiscale di favore di cui gode. Indagate a piede libero altre 8 persone. Nino Amadore, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Messina. E già si fanno sentire le reazioni politiche, mentre l'attenzione si concentra anche sulle vicende del centro-sinistra e su questioni giornalistiche. Il punto politico di oggi con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Beh sì, la prima reazione politica arriva da Rosy Bindi, presidente della Commissione Antimafia. Questo è un fatto gravissimo, dice la Bindi, ma non è il primo, auguriamoci che possa essere uno degli ultimi. L'esito della nostra inchiesta sarà reso noto non appena completato. Il nome di De Luca, sottolinea Bindi, era un nome non solo segnalatoci dal candidato 5 Stelle Cancelleri, ma anche dalla prefettura e dalla procura competente. È l'ennesima dimostrazione che gli strumenti di cui disponiamo nel nostro paese sono insufficienti. Voti sporchi, dice Danilo Toninelli dei 5 Stelle contro il movimento, e anche Claudio Fava della sinistra attacca, avevamo avvertito Musumeci. Nel centrosinistra invece Matteo Renzi riparte con il treno, ieri in TV da Floris sulla 7 senza Di Maio, e Renzi spiega i sondaggi, il PD ha moltissimo da recuperare ma non vede un'Italia stanca e delusa. Ancora però si discute sulla premiership, c'è chi indica Paolo Gentiloni e chi Pietro Grasso invece di Renzi. A te Simone. Grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Veniamo al nuovo capitolo dell'inchiesta napoletana che vede coinvolto Alfredo Romeo. Appalti truccati negli ospedali napoletani. La Procura di Napoli, oggi guidata da Giovanni Melillo, indaga da tempo su diversi filoni. I riflettori si riaccendono sul Cardarelli nell'ambito delle indagini che riguardano l'imprenditore Romeo. Sono state emesse misure cautelari per diversi indagati. Ai domiciliari il direttore generale del Cardarelli e commissario dell'ospedale del mare Ciro Verdoliva e l'imprenditore Alfredo Romeo, tornato in libertà ad agosto nell'ambito dell'inchiesta Consip. L'accusa è abuso d'ufficio e anticorruzione. Complessivamente sono 16 i destinatari del provvedimento restrittivo eseguito dai carabinieri per reati che vanno dalla corruzione alla frode. Secondo indiscrezioni sono finiti ai domiciliari anche Giovanni Annunziata, ex direttore generale dell'ufficio patrimonio del Comune di Napoli, e Ivan Russo, collaboratore di Romeo. La DDA di Napoli e la sezione reati contro il patrimonio della Procura partenopea starebbe lavorando nello specifico su 3 diverse ipotesi di corruzione relative ad appalti riconducibili all'ospedale Cardarelli di Napoli, al Comune partenopeo e alla Sovrintendenza per i beni culturali di Roma. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. Siamo all'economia con il seminario di oggi del Centro Studi di Confindustria, dal quale sono emerse indicazioni interessanti tanto per quanto riguarda il PIL quanto per lo stato dell'industria manifatturiera in Italia. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Un quadro a luci ed ombre con un PIL che risale ma con livelli pre-crisi ancora lontani. L'uscita dell'economia italiana dalla recessione si è andata consolidando, tuttavia secondo Confindustria di questo passo il recupero si concluderebbe nel 2021. Nello scenario mondiale poi l'industria italiana si conferma al 7° posto nel mondo, seconda in Europa dopo la Germania, ma tra il 2008 e il 2015 il manifatturiero, calcola Confindustria, ha perso quasi 800.000 posti di lavoro con il cambio di rotta con più 60.000. Occorre cavalcare la recuperata fiducia, puntare sul lavoro, ridurre il divario tra la società e i giovani, ha commentato il presidente di Confindustria Boccia, che ha bacchettato la politica, priva spesso, ha detto, del senso del limite, una politica che privilegia il conflitto più che il confronto. La crisi non è alle spalle, ha detto dal canto sul ministro dello sviluppo Calenda, e non bisogna farsi prendere dalla retorica del va tutto bene. Sentiamo allora la sua voce e poi la linea può tornare allo studio. Attenti ad evitare trionfalismi, perché non ce n'è da fare, soprattutto stando attenti a far diventare la fine di questa legislatura e la campagna elettorale una fuga della realtà collettiva, per cui si pensa che si possano distribuire mance elettorali a tutti. Grazie dunque ad Alessandra Schepisi per questo collegamento dal seminario del Centro Studi di Confindustria. Noi veniamo alle vicende catalane, iniziando dalla protesta di questa mattina, e anzi parlando prevalentemente dello sciopero di questa mattina e della protesta. Forse possiamo sentire un audio alla stazione di Girona. E anche dal suono capite che le persone erano parecchie migliaia. Sergio Nava ci aggiorna. Sergio. Sì, buongiorno Simone. Prima però di parlare di scioperi, una notizia di poco fa: non ci sarà una lista unica indipendentista alle prossime elezioni catalane del 21 dicembre, perché i 3 principali partiti indipendentisti, PDeCAT, Esquerra e CUP, non hanno raggiunto un accordo per correre insieme, quindi ci saranno liste separate. Tornando allo sciopero, Catalunya paralizzata in mattinata su strade, autostrade, treni regionali ad alta velocità, oltre che nelle università, per questo sciopero di protesta contro le detenzioni dei 10 politici e attivisti indipendentisti. I manifestanti hanno invaso le principali vie di circolazione e i binari ferroviari, paralizzando buona parte della mobilità su 70 strade e autostrade. Solo in mattinata i Mossos da squadra hanno tolto alcuni dei blocchi. Gli atenei, lo dicevamo, sono chiusi, metropolitane, trasporti pubblici e aeroporti aeroporto funzionano quasi regolarmente. Il tutto mentre il premier belga Michel, dopo le dichiarazioni pro-catalaniste di numerosi esponenti fiamminghi, è dovuto correre ai ripari. Puigdemont è un cittadino europeo che deve rispondere delle proprie azioni senza privilegi, ha detto Michel. Grazie Sergio Nava per questo aggiornamento. Noi restiamo all'estero e andiamo al viaggio in Oriente di Trump, tappa cinese. È un'accoglienza imperiale quella che Pechino ha preparato al presidente americano, anche se secondo qualche analista criticone è stato in realtà Trump a riesumare il tradizionale kowtow di reverenza agli imperatori cinesi in versione ipermoderna, ossia con tweet di apprezzamento prima di arrivare a Pechino proveniente da Seul. In mattinata Trump aveva reso sorpresa la mossa provocatoria di recarsi al confine con la Corea del Nord, ma la densa nebbia ha costretto al rientro l'elicottero presidenziale. Nel discorso al Parlamento sudcoreano Trump è stato durissimo con Pyongyang, enfatizzando le spaventose violazioni dei diritti umani e definendo la Corea del Nord un inferno che nessuno merita. La questione si decide tra Washington e Pechino e potrebbe finire, come nel caso del disavanzo commerciale americano, con vittorie formali e mediatiche per Trump, ma senza cambiamenti di sostanza. Saranno firmati tanti accordi commerciali per i quali il presidente americano potrà cantare vittoria, anche se la Cina non aprirà di più il suo mercato né farà più incisive riforme finanziarie e valutarie. Quanto a Pyongyang, ci farà qualche promessa, ma certamente metterà il freno su ogni ipotesi di conflitto armato. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Seul. Al centro dell'attenzione economica europea e in particolare dell'attenzione economica italiana c'è la questione, ancora una volta, degli NPL, ossia i crediti non più esigibili dalle banche. Su questo si dovrebbe esprimere tra l'altro anche il Parlamento europeo. Sentiamo. Mentre è in corso la consultazione che si concluderà i primi di dicembre, oggi l'ufficio legale del Parlamento europeo dirà se la BCE può imporre nuove regole alle banche sugli NPL o se si tratta di attività normativa che spetta quindi all'autorità bancaria europea e all'Europarlamento. Il parere sottolineerà gli aspetti critici dell'addendum BCE, ci spiega il presidente della Commissione Problemi Economici, Roberto Gualtieri. Noi innanzitutto leggeremo con attenzione il parere del servizio giuridico, poi noi faremo la discussione con la NUI giovedì e sulla base di questo valuteremo se la Commissione come tale potrà presentare delle proposte anche scritte alla consultazione. Secondo il ministro Padoan, unico a prendere la parola all'Eurogruppo, l'addendum dell'Eurotower va oltre i limiti istituzionalmente definiti dall'azione della BCE, poiché inserisce una norma generale, mentre bisognerebbe valutare caso per caso. In più prevede elementi di retroattività. Sulla stessa linea la Federazione Bancaria Europea, che parla di aumento dell'incertezza regolamentare. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci spostiamo a Genova adesso, dove i lavoratori dell'Ilva aderenti alla FIOM protestano nel giorno del primo incontro sul contratto di programma, quello con gli enti locali. Andrea Ferro sta seguendo da questa mattina la protesta. Andrea, buongiorno. Sì, buongiorno. Dopo il corteo di stamane prosegue l'occupazione dello stabilimento di Cornigliano, occupazione giunta al terzo giorno, e prosegue nell'attesa dei due incontri a Roma, il primo nel pomeriggio tra le istituzioni locali e il ministro Calenda, il secondo domani, quando Calenda riceverà i vertici della data ArcelorMittal e i sindacati. La questione centrale riguarda gli esuberi. Nel primo documento erano 4.000 su 14.000 dipendenti con contratti senza scatti di anzianità e integrativi. Su questo punto ArcelorMittal ha fatto marcia indietro, ha annunciato un'apertura anche sul numero degli esuberi. A queste condizioni il governo ha riaperto il tavolo delle trattative. Dentro la partita generale c'è la partita genovese. Nel primo piano si parlava di 600 esuberi su 1.500 dipendenti dello stabilimento di Cornigliano, sul quale però vige un accordo di programma siglato nel 2005 con le istituzioni dopo la dismissione degli impianti a caldo, accordo che in sostanza garantisce i posti di lavoro, accordo che però ora vacilla. Di qui l'occupazione della fabbrica. Bruno Manganaro della FIOM CGL al nostro microfono spiega perché la protesta prosegue. Perché io non ho ricevuto nessuna data in cui c'è il tavolo per Genova e c'è la trattativa sull'accordo di programma. Appena ci danno la data su Genova, per l'incontro su Genova, noi ci fermiamo, ci vogliono 30 secondi a farlo. Dicevo, il corteo è rientrato in fabbrica, non ci sono più disagi per il traffico nella zona tra il centro e il ponente. Da Genova per il momento è tutto, a te Simone. Grazie ad Andrea Ferro per questo aggiornamento. Veniamo al processo a Marco Cappato per la morte di DJ Fabo, che è iniziato oggi. Sarà un processo rapido quello a Marco Cappato, imputato per aiuto al suicidio per la morte in una clinica svizzera di Fabiano Antoniani, noto come DJ Fabo. Si è aperto questa mattina con l'ammissione delle prove testimoniali e documentali davanti alla Corte d'Assise di Milano e potrebbe arrivare a sentenza già tra gennaio e febbraio. Questo processo, ha spiegato Cappato dopo la breve udienza, sarà un'occasione pubblica per verificare per le persone che soffrono e per i malati terminali quali sono i diritti di scelta sull'interruzione delle sofferenze, ma anche per chi vuole vivere. In una delle prossime due udienze verrà anche proiettato in aula il filmato integrale dell'intervista alle Iene di DJ Fabo, nel quale si mostra l'agonia a cui sarebbe potuto andare incontro l'uomo se fossero stati semplicemente staccati i macchinari che lo tenevano in vita. Sempre oggi, i radicali hanno lanciato una campagna via web per sostenere anche economicamente l'azione legale. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Prima di chiudere e di andare a sentire cosa succede sulle strade, parliamo di una mostra che si apre a Milano ed è una mostra particolare perché è una mostra sulla mala milanese. Il suo nome era Cerutti Gino. 40 anni di storia di Milano raccontati attraverso il lato più oscuro della città. E questo è il significato della mostra intitolata Milano e la Mala, storia criminale della città dalla rapina di Via Osopo a Vallanzasca, in programma fino all'11 febbraio del 2018 a Palazzo Morando, nel capoluogo lombardo. L'esposizione ripercorre la nascita e l'affermazione della criminalità a Milano dalla fine degli anni 40 a metà degli anni 80 attraverso 170 immagini d'epoca, locandine originali di film polizieschi degli anni 60 e 70 girati a Milano, ma anche attraverso documenti e strumenti del mestiere, come la celebre custodia del mitra di Luciano Lutring, o i dadi usati nelle bische, fino alle armi utilizzate per combattere il crimine dai poliziotti della Questura di Milano, il curatore della mostra Stefano Galli. Quel che abbiamo raccontato è l'evoluzione tra la malavita del primo dopoguerra, quindi della leggera, diciamo così, di gruppi anche molto disorganizzati e improvvisati, fino invece all'organizzazione ferrea che aveva dato per esempio Turatello. In mezzo c'è appunto tutta l'evoluzione della città e della malavita che di conseguenza si adegua e in qualche modo impone i cambiamenti alla città stessa. In mostra tante immagini, da quella sulla rapina del secolo, quella di Via Osopo nel 1958, a quelle dei protagonisti della mala milanese, da Luciano Lutring a Francis Turatello, da Angelo e Paminonda fino a Renato Vallanzasca, il bandito della Comasina, ultimo rappresentante prima dell'avvento della criminalità organizzata. Da quanto tempo eri a Roma? Non posso rispondere. Ma mi dici perché sei venuto a Roma? Mi piace la città, non mi credi, sono innamoratissimo di Roma. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro d'Italia e iniziamo con la nostra grande passione, ossia l'ATAC di Roma, perché dopo il traffico parleremo con un sindacalista. Che cosa succede? Che l'ATAC ha presentato il nuovo piano industriale. Nel nuovo piano industriale si prevedono alcune modifiche per esempio all'orario di lavoro. Si passa dalle 37 alle 39 ore settimanali. Sapete che 39 ore settimanali è il tempo previsto dal contratto nazionale dell'autotrasporto e quindi del trasporto pubblico locale, quindi non ci dovrebbe essere problema. Ebbene, i sindacati hanno detto: blocchiamo la città. Traffico, a tra poco. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta Effetto Giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, sempre 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. C'è la nostra pagina Facebook, dalla quale andiamo in diretta, la pagina Facebook di Radio 24, tra l'altro la pagina Facebook di Effetto Giorno, poi ve lo ricordo raramente perché insomma, no? Però c'è anche uno spazio nel quale potete recensire la trasmissione, un po' come su TripAdvisor, da 1 a 5 stelle. Scegliete voi, mandateci anche le vostre critiche, se credete, nessun problema, risponderemo e ascolteremo e correggeremo quando necessario. Andiamo a Roma nella nostra prima tappa del Giro d'Italia per parlare dell'ATAC, come si diceva, una nostra grande passione. Ci torniamo spesso per le tante assurdità che hanno costellato la vicenda e che costellano ancora la vicenda di questa azienda del trasporto pubblico locale. Assurdità che spesso, lo sappiamo, vengono raccontate anche dal nostro Sebastiano Barisoni nella classifica del venerdì di Focus Economia tra gli sprechi. Ma quello di cui vogliamo parlare oggi in realtà è il nuovo contratto, il piano industriale che sta arrivando dell'ATAC e che prevede un nuovo contratto con i sindacati, la firma di un nuovo contratto o quantomeno delle modifiche al lavoro per come viene svolto adesso. Tra le cose che vengono previste, racconta bene il nostro amico, perché l'abbiamo avuto ospite tante volte, Lorenzo De Cicco del Messaggero, tra le cose previste ci sono il passaggio da 37 a 39 ore di lavoro alla settimana, ci saranno 400 dipendenti con mansioni operative assegnati in più appunto alle mansioni operative, 100 controllori dei biglietti e poi ci sarà un bonus per le multe incassate. Questo aumento dell'orario di lavoro, a quanto pare, e altri elementi non sono piaciuti ai sindacati. Saluto Claudio De Francesco, che è segretario di FAISA Confile. Buongiorno De Francesco, benvenuto. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. No, non sono direttore, per carità. Però sul campo. La ringrazio, però non lo sono. Lei ha dichiarato proprio al Messaggero, leggo, dovevano pagare i responsabili del dissesto e invece si massacrano i lavoratori. Mi spiega in queste due ore di lavoro in più alla settimana dov'è il massacro dei lavoratori? E scusi la brutalità. No, assolutamente, guardi, è semplicistica, Roma non è Milano, cioè Milano rappresenta la superficie chilometrica di un quartiere di Roma, Roma ha altri 14 municipi rispetto a Milano, a Roma ci sono il 5% di corsie preferenziali rispetto a altre città europee, quindi voglio dire... Quindi, i mezzi sono talmente Mi scusi, però mi risponda, abbia pazienza, Francesco, mi risponde sull'orario di lavoro. Qual è il problema? Dov'è il problema? Aumentando i carichi di lavoro si aumentano l'inidoneità, perché gli autisti qua guidano vetture vecchie di un'età media di 13 anni. È il parco più vecchio d'Europa. Sì. Le buche di Roma ormai hanno l'età di Nerone. Cioè, se uno va a coprire una buca, dice no, guarda che ci sto prima io, ma di che cosa vogliamo parlare? Ma su questo siamo d'accordo tutti, De Francesco, che i problemi di Roma siano questi, lo sappiamo, che i problemi dell'ATAC siano questi, cioè, ma cosa c'entra l'orario di lavoro? Non ho capito. Aumentando i carichi di lavoro si aumenta un lavoro usurante, si aumentano praticamente i non idoni, praticamente le schiene vengono rotte, ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che qui il risanamento di un'azienda che ha 1.300 milioni di euro di debito fatto da chi ha saccheggiato l'azienda lo devono ripagare chi? Sempre solo i lavoratori, il popolino. Perché non si parte da sopra? Io voglio ricordare a tutti che questa azienda ha dei manager che guadagnano quanto il presidente degli Stati Uniti d'America, non se ne è mandato via uno, anzi sono stati riassunti. Un manager De Francesco, però io mi scusi, forse è un problema mio, ho un problema di analfabetismo funzionale, però non riesco a capire la risposta sul turno di lavoro, perché sono due ore in più a settimana, che fanno quanto? 20 minuti al giorno sostanzialmente, mezz'ora al giorno, quant'è? O poco meno? Non riesco a capire dove sia il problema in queste due ore in più, che tra l'altro, lo ricordo agli ascoltatori, sono queste 39 ore sono nel contratto nazionale del trasporto pubblico locale, no? Però questo contratto nazionale di lavoro è solo i dipendenti di Roma, è applicato un accordo denominato era 1, era 2 dal 17 luglio 2015, il quale se non vengono a lavorare perdono circa al giorno 20 euro, quindi stiamo dicendo che noi aumentiamo i carichi di lavoro, non gli diamo vetture nuove, non gli diamo niente, aumentiamo sempre di più i carichi col traffico di Roma, mancano le corsie preferenziali, e noi paghiamo sempre noi a livello di popolino, mai però che si paga dall'alto, mai si fa un piano industriale serio. Un ascoltatore che fa il camionista ci scrive lavoro 70 ore la settimana, diciamo, poi è chiaro che nessuno vi dice lavorate 70 ore la settimana, però lei capisce che quando si sente dire che protestate, minacciate addirittura di bloccare la città venerdì, tra l'altro, De Francesco, ho capito bene? Sì, assolutamente, c'è uno sciopero di 24 ore, sì. Volete bloccare la città, ma per questo motivo qua, per queste due ore di lavoro in più? Sì, perché non ci sentiamo responsabili di questa devastazione dell'azienda, non è il personale che ha portato questo debito dell'azienda, il debito così alto è stato procurato dalla politica. Mi scusi, De Francesco, però questo non mi sembra, abbia pazienza, perché è una cosa che non riesco a capire io. A me non sembra un far pagare i lavoratori, tra l'altro sono previste tutto... No, due ore in più a settimana e far pagare i lavoratori. Io vorrei vedere lei guidare dei mezzi pesanti su Roma e poi vediamo. Ma lo fanno in tutto il mondo. Sì, ma in tutto il mondo non prendono 1.400 euro di quello che so io. Qui invece aumentano i carichi di lavoro e Roma, ritorna a dire, ha degli accordi, proprio abbiamo una manifestazione al giorno. Veramente stiamo rasentando il ridicolo. Ma il fatto non è quello... praticamente perché ci volete far fare 39 ore, per amor di Dio, ma perché si deve iniziare sempre dal popolino? Ma perché sempre dai più piccoli? Per quale motivo chi ha saccheggiato questa azienda non viene punito? Perché non si interviene sulla biglietteria parallela? Però De Francesco, così è sempre una girata su qualcun altro, cioè è come dire, è un po' di benaltrismo, mi scusi. In un'ottica di responsabilità personale, almeno per come la vedo io, poi per carità, magari è un'opinione personale, però in ottica di responsabilità personale dico, io intanto faccio il mio, Poi se i vertici pagheranno o non pagheranno non è una questione, intanto cerco di far funzionare questa azienda nella maniera migliore possibile. Ma io voglio fare un esempio semplice, ma un turno secondo lei gli autisti di Roma non lo fanno con tutto il traffico che c'è a Roma, non fanno 39 ore, ma lo sai quante volte le passano in tutti i giorni le ore di guida? Ma lasciamo perdere, cioè sono io gli potrei fare un milione di esempi, sì. Su come basta vedere quello che succede la mattina o la sera a Roma, i turni non c'è un recupero psicofisico, gli autisti hanno 80 giorni di ferie pregresse, è il popolo più controllato di tutti e noi partiamo sempre dal recupero a salvare, a risanare l'azienda sempre da sta parte qui del popolino. Ricordo che questi lavoratori hanno già dato con un accordo nel 2015 applicato solo agli autoferrotranvieri romani che se non vengono a lavorare e hanno un giorno di malattia perdono dei soldi, però questi gli hanno già dato e sono due anni che hanno questo tipo di accordo. Per quale motivo invece non si interviene sulla biglietteria parallela? Per quale motivo non si interviene sui manager, sì, che guadagnano quanto? Però ripeto, De Francesco, con lei mi sarebbe, sì, piaciuto, come dire, entrare per così dire nello specifico su questo tema. Vedo che la sua opinione è questa. Ci sono molti ascoltatori che ci scrivono dall'altra parte che insomma se trovano le argomentazioni un po' assurde, glielo dico sinceramente. Qualcun altro dice, mi scrive su Facebook, Antonio dice, cordiale Simone Spezia, le consiglierei di lavorare come autista magari in ATAC per un anno e poi ne riparliamo, ma guardi, non ho le qualifiche, se volete fare una prova la faccio volentieri, dall'altra parte dico che ci sono altri luoghi del pianeta nei quali due ore in più di lavoro a settimana non sono un problema, poi per carità si può rimanere, per così dire rimanere in questo modo, insomma io la ringrazio, grazie comunque a Claudio De Francesco che si è sottoposto a ad essere torchiato sostanzialmente, la ringrazio, grazie a De Francesco, segretario di FISA Confile. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire, mi dicono che abbiamo il sindaco di Positano in diretta, buongiorno sindaco, è in linea con noi? Buongiorno a voi. Salve, eccoci qua, ci siamo sentiti l'altro giorno per motivi diciamo più allegri, che quest'idea di più stimolanti, mentre invece sappiamo che è un disastro di fango da voi, De Lucia. Sì, più che fango sono detriti che sono venuti via dalle montagne incendiate di quest'estate, che praticamente ci hanno distrutto tre cime dei Monti Lattari. Parliamo di cime che sono oltre 1000 metri, 1300, 1400, per cui è chiaro che a valle arriva una montagna di detriti, perché il fango già è arrivato nei primi acquazzoni di settembre e ci hanno creato dei disagi che vanno dalla frazione di Ponte Pertuso Nocelle sulla statale con l'invasione dell'isola ecologica e il vallone che sfocia sulla spiaggia che oggi ancora ci dà problemi. Insomma, scuole chiuse praticamente da lunedì, sindaco? Scuole chiuse, spero di riuscire a creare un canale nella giornata di oggi, che c'è uno splendido sole, per riaprirle domani. Ma se non riusciamo è chiaro che rimane il pericolo, perché questo vallone attraversa l'intero territorio comunale, dalla provinciale, la statale e la comunale, per cui è un problema anche far circolare i pulmini. Allora ringrazio per questo aggiornamento De Lucia, abbiamo voluto accendere per un attimo i riflettori su quello che sta succedendo a Positano, perché poi queste cose a volte passano raramente sulla cronaca nazionale, sulle prime pagine dei giornali, e magari ci sono luoghi, anche luoghi meravigliosi come Positano, che vivono situazioni di grande difficoltà come in questo momento e come altri pezzi della Campania in queste ore naturalmente. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, poi ci ritroviamo con due storie che hanno una in parte a che fare con la scuola, una pienamente a che fare con la scuola, la seconda è una sentenza di Cassazione che dice che non c'è una sanzione penale per chi ritira il figlio dopo l'elementare, chi non gli fa fare le medie, di fatto un aggiramento dell'obbligo scolastico, se così possiamo definirlo, e dall'altra parte una storia di foto e video indecenti di ragazzine, di una sessantina di ragazzine che stanno circolando in rete a Modena e che non si riescono ad arrestare. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: a due giorni dalle elezioni, manette per il neoeletto al Parlamento siciliano Cateno De Luca dell'UDC. L'accusa: evasione fiscale. Appalti al Cardarelli di Napoli, ai domiciliari il direttore generale e l'imprenditore Alfredo Romeo. I livelli del PIL torneranno al pre-crisi nel 2012, dice Confindustria. L'Italia resta settima potenza manifatturiera al mondo. Trump in Cina, terza tappa, il viaggio in Estremo Oriente, firmati accordi tra aziende per 9 miliardi di dollari. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, il nostro giro d'Italia adesso ci porta a Salerno. A Salerno per una sentenza della Cassazione che sta facendo discutere, ed è una sentenza, tra l'altro trovate i dettagli anche su Scuola 24, il canale dedicato a questo del sito del Sole 24 Ore, una sentenza nella quale la Cassazione sostanzialmente stabilisce che non ci può essere sanzione penale per i genitori che ritirano il figlio dopo la quinta elementare, di fatto non facendogli frequentare le medie. In quello che suona a noi, alle nostre orecchie, forse poco esperte dal punto di vista legale, come un sostanziale aggiramento di quello che è l'obbligo scolastico. Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, torna da noi. Rusconi, buongiorno, bentornato. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Il punto è che c'è un buco normativo su questo, Rusconi, ho capito bene? Beh sì, perché la norma prevede che ci possa essere una multa ridicola di 30 euro per quanto concerne i genitori che non adempiono all'obbligo di frequentare la scuola elementare. Per quanto riguarda la scuola media e la scuola media superiore, perché l'obbligo è esteso a 16 anni da un po' di tempo, quindi il biennio delle superiori, non c'è nessuna sanzione, quindi l'obbligo di essere studenti fino a 16 anni in effetti è un obbligo poi non sanzionato, e come tante cose in Italia finisce nel dimenticatoio, si fanno tante leggi, la Cassazione nella sentenza lo dice, ci sarebbe bisogno di un intervento legislativo per poter sanzionare anche la mancanza dell'obbligo scolastico. Noi poi come persone di scuola diciamo che ci dovrebbe essere anche un intervento formativo, perché insomma un genitore che non manda il figlio a scuola probabilmente qualche responsabilità educativa dovrebbe averla al di là del codice penale, però in questa situazione l'obbligo in effetti non viene rispettato e quindi siamo nelle tante situazioni di limbo in cui è lasciata la scuola italiana. È lasciata la stessa scuola italiana. Voi registrate casi di questo genere? Immagino che li segnaliate al Ministero, no? No, non tanto al Ministero quanto ai servizi sociali e agli uffici scolastici regionali, che sono la propaggine del Ministero nelle varie regioni, ma anche loro sono impotenti. Cioè il servizio sociale, una ASL particolarmente attiva, va via a vedere perché questi genitori non mandano i figli a scuola a 7 anni, 12 anni, così via. Poi che fa? Fa la segnalazione ai carabinieri. I carabinieri che fanno? Possono mettere la multa, non loro direttamente naturalmente, tramite il tribunale, di 30 euro e tutto finisce lì. Cioè una vera e propria politica di intervento educativo culturale anche sui genitori, che sono quelli delle fasce medio-basse, sì. Non esiste. Anche qua, come al solito, abbiamo un'Italia a 2-3 velocità, insomma, perché poi un genitore appena di ambito medio, è chiaro che ci tiene che i figli studino, che possono eventualmente fare anche l'università, ma stiamo parlando delle fasce particolarmente disagiate a livello socioculturale che, come spesso succede nel nostro paese, sono abbandonate a se stesse. Poi non ci lamentiamo se avvengono fenomeni negativi. Ovvio. La ringrazio, grazie a Rusconi per essere stato con noi, e per Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, e per averci aiutato a chiarire questa questione. Quindi è un obbligo, ma senza sanzione. Restiamo in ambito scolastico, ma per parlare di tutt'altra vicenda, una brutta vicenda. È una vicenda che arriva da Modena, dove che cosa è successo? Che sono coinvolte una sessantina di ragazzine che si sono scattate delle foto tra loro, erotiche, semi-erotiche, semi-nude, se le sono scambiate via WhatsApp. Il materiale è finito in mano ad un maschio che ha, un maschio probabilmente della classe, più o meno della stessa età, che ha categorizzato tutto sul suo computer e ha iniziato a diffonderle appunto via WhatsApp ad altri compagni di classe. Una vicenda che è arrivata alle orecchie della Caramella Buona, che è un'associazione antipedofilia. Abbiamo in linea il presidente Roberto Mirabile. Buongiorno Mirabile, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. Grazie. Ovviamente non possiamo fare nomi né della scuola, e giustamente, ed è giusto che sia così, né delle ragazzine, però se ci può dare qualche dettaglio in più sui contorni della vicenda e su come vi è arrivata notizia di questo, perché ci serve soprattutto a generare consapevolezza anche nei genitori di quello che può succedere e di quello a cui stare attenti. Mirabile. Grazie a voi, perché partendo da un fatto di cronaca eclatante dobbiamo dare comunque un messaggio educativo a queste ragazzine, non solo. È accaduto questo, che addirittura 63, ripeto, 63 adolescenti dai 16 ai 17 anni durante l'estate, chi lo sa, approfittando del caldo, hanno realizzato il cosiddetto sexting, ovvero hanno fatto dei selfie molto sexy a carattere erotico, sia fotografico che video, di centinaia e centinaia di file. Inizialmente hanno incominciato a distribuirlo fra loro, fra amiche. Questo virus si è allargato a macchia d'olio e sono diventate 63 ragazze. Fra queste 63 ragazze, logicamente qualcuno aveva il fidanzatino, probabilmente oggi non è più tale, e come capita, ahimè, non i maschietti, uno di questi ha scientificamente, incredibilmente, catalogato tutto questo megagiga di file, di fotografie sexy, con nome e cognome di ogni ragazza. E cosa ha fatto? Giorni fa, con un semplice, terribile click, lo ha diffuso in rete, in rete dove non ci sono confini, non c'è legge, non c'è polizia. Dando possibilità ovviamente a tutti di scaricarlo, a chiunque di scaricarlo. Tutto il mondo. Ma si è riusciti a rimuovere questo materiale, posto che ovviamente no. Può darsi che si sia diffuso ulteriormente, però si è riusciti a rimuovere questo materiale, no? No, per ben tre volte con delle segnalazioni è stato rimosso e per ben tre volte è tornato in rete, così come capita purtroppo nei ben peggiori dei siti di pedopornografia. Muoiono, nascono, ma il problema, ascoltatori, è ben altro. Il problema non è tanto adesso con la polizia postale, bravissima, cercare di bloccare ed eliminare questo link terribile. Il problema è che in questi giorni, in queste ore, mentre noi adesso realizziamo questa intervista, sicuramente decine, centinaia, migliaia di persone in Italia, non solo, stanno scaricando queste foto e le mettono nel loro PC, nel loro smartphone, nella loro chiavetta. Chi ci può dire che fra un anno, fra cinque anni, fra dieci tutto questo non salti fuori? Allora io la ringrazio, Roberto Mirabile, presidente della Caramella Buona, un'associazione antipedofilia, per averci aiutato a raccontare questa storia. Io vi ricordo che esattamente per un motivo simile a questo una donna, Tiziana Cantone, che non smettiamo di ricordare, si tolse la vita per la diffusione di un video erotico. Quindi massima attenzione e grazie a Mirabile per averci aiutato ad accendere i riflettori su questa vicenda. Traffico Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.